Il gastronauta di Davide Paolini. Cin cin, cari radioascoltatori, oggi mi va di iniziare così perché parleremo di bollicine, parleremo di spumanti, parleremo di champagne, insomma, oggi parleremo di quel prodotto, di quei prodotti che di solito aumenta il grande consumo durante le feste natalizie, ma ormai non è ancora più vero perché durante tutto l'anno questi prodotti vengono così serviti nelle tavole a tutto pasto, come si dice. Allora, siccome sarà una trasmissione che credo dove l'anima italiana contro quella francese emergeranno, dico subito: numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666 per chi volesse intervenire. Allora, perché questa trasmissione? Perché diciamo che i resoconti di fine anno danno delle cifre in milioni, e così sono usciti dei dati che dicono spumanti italiani tout court, non si sa bene cosa ci sia dentro, che battono il numero di bottiglie francesi. Bene, insomma, l'anima italiana viene sempre fuori. Io sono completamente in disaccordo su questi confronti, anche perché sicuramente se si andranno a vedere i dati paese per paese magari si scoprirà che in Francia di prodotto di spumante italiano ne arriva ben poco, mentre in Italia di champagne ne continua a arrivare a fiumi. Allora, io sentirò sia, diciamo, chi rappresenta lo champagne, chi rappresenta gli spumanti italiani, proprio per dibattere su questo. Iniziamo da un protagonista del Franciacorta di OCG, che non posso chiamare spumante ovviamente, ma che è un prodotto che si ottiene in Franciacorta con il metodo classico, ed è una DOCG, ed è quello che, diciamo, paritetico allo champagne, perché porta il nome del territorio ed è unico, così come lo porta lo champagne. Buongiorno a Maurizio Zanella di Cadelbosco. Buongiorno. Zanella, tu hai inviato ai giornali una lettera appunto per prendere posizione su questo argomento, sul, diciamo, la definizione di spumante italiano. Ci vuoi spiegare qual è appunto la posizione di un produttore importante di spumante di Franciacorta, mi correggo, italiano? Beh, la lettera non era per puntualizzare le differenziazioni che ci sono nell'ambito della produzione nazionale, ma era soprattutto, ahimè, a difesa dello champagne, perché dei titoli che si sono letti fra Natale e Capodanno emergeva che lo spumante ha spezzato le reni o ha battuto lo champagne, sia a livello quantitativo, ed emergeva anche a livello qualitativo. Mi sono semplicemente, ho cercato di puntualizzare che questi dubbi probabilmente hanno una scarsa affidabilità, essendo stati diramati in dicembre, e che quindi questo trionfalismo va un attimo ridimensionato. Ho fatto un distinguo nell'ambito della produzione italiana su che cosa vuol dire spumante. Ecco, rimani con noi, abbiamo anche un rappresentante, diciamo, dello champagne, anche se è un italiano, ma è un importatore di champagne molto importanti e da tanti anni diciamo sul mercato, quindi conosce il mercato come pochi. Buongiorno a Giuseppe Mongiardino. Buongiorno a te, buongiorno a Maurizio. Mongiardino, ma secondo te si possono così paragonare questi dati? Cioè, si può paragonare lo champagne agli spumanti italiani? O diciamo che ognuno ha una sua storia, un suo territorio, una sua tradizione? Ma è impossibile fare un paragone, come giustamente diceva Maurizio Zanella prima. Sono completamente due mondi diversi, due prodotti diversi. Anche perché noi nello spumante cosiddetto italiano, cosiddetto spumante, ci mettiamo dall'asti al moscato, al prosecco, una gamma infinita di prodotti, diciamo, di bollicina, mentre lo champagne è unico, un terroir, un territorio, un sistema, un modo, è una tradizione. Ecco, ma lo champagne in Italia negli ultimi anni sente la concorrenza di questa crescita degli spumanti, chiamiamola metodo classico? Assolutamente no, sono due mercati diversi, due tipologie di acquirenti diversi, due utilizzi diversi, cioè non puoi passeggiare con l'asti, ovviamente, perché è abboccato, non puoi passeggiare con moscato, puoi passeggiare col prosecco, però non hai quell'intensità, quegli aromi e quelle forze gustative che può dare un vino nero, come altri, come i prodotti che hai indicato tu prima, cioè i cosiddetti champenoise italiani, che adesso si chiamano metodi classici, certo, e così via, hanno già una vicinanza molto più importante verso lo champagne. Ricordo il numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666, torno da Zanella. Zanella, lo spumante metodo classico e Franciacorta e gli altri metodi classici italiani hanno guadagnato posizione nei mercati esteri in questi ultimi anni? Sì, continuano a crescere anche se in maniera estremamente lenta e proporzionalmente estremamente inferiore a quelle della corazzata dello champagne, ma comunque continuano a crescere. Volevo, se posso, correggere la terminologia che stiamo usando. Quando parliamo di Franciacorta, ma non è un mezzo, non stiamo parlando di uno spumante. Dobbiamo smetterla di generalizzare parlando questo termine che non viene mai usato al Trampe quando è nel mondo del vino italiano, quando si parla di un vino rosso che viene dal Piemonte, normalmente lo si identifica come Barolo o Barbaresco, con la sua denominazione. Dobbiamo fare la stessa cosa anche in Italia. Sì, è vero, questo è un problema sicuramente molto importante che credo ci vorrà molto tempo prima che venga acquisito, nonostante lo sia. Mongiardino, poi chiederò dopo magari i dati sullo champagne, ma lo champagne complessivamente quest'anno ha perso posizioni, anche se ancora magari i dati non sono definitivi. I dati non sono definitivi, diciamo che sino a settembre era un grosso incremento. Da ottobre-novembre c'è stato un pareggio con l'anno scorso, i dati di dicembre non li sappiamo ancora, i mondiali. Però sappiamo che le nazioni che ci hanno preceduto come sviluppo di champagne, quindi l'Inghilterra e gli Stati Uniti, hanno avuto un calo piuttosto notevole, forse è arrivata la crisi prima, che si aspettano anche dei resi da queste due nazioni in Champagne. Bene, io ringrazio Maurizio Zanella, ringrazio Giuseppe Mongiardino. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di spumanti italiani. Distinguiamo appunto il discorso del Franciacorta, come giustamente ha segnalato Zanella, e di champagne, e cominciamo a sentire e vedere i radioascoltatori che intervengono. Ricordo comunque il numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666. Carlo dalla provincia di Como, buongiorno Carlo. Buongiorno Davide, buongiorno agli ascoltatori. Sono pienamente d'accordo con la differenziazione tra spumante e champagne. Faccio un esempio molto semplice e banale. La gente che non capisce la differenza o che non ha questa conoscenza dei prodotti va a finire che compra il champagne e lo beve col panettone. Purtroppo succede spesso questo. Questo è un dramma. Questo è un dramma. Sono d'accordissimo con il primo intervento del Zanella, dicendo che sono due cose totalmente differenti. Non si può mica pasteggiare con l'asti spumate mangiando i gamberoni, ecco. Mentre col champagne si può fare, mentre si può fare con un pino nero. Sono d'accordissimo con l'intervento di prima, però ci tenevo a dire che la gente purtroppo sviata da conoscenze un po' improprie va a finire che compra champagne e lo beve col dessert o col panettone, ecco. Bene, grazie a Carlo dalla provincia di Como. Sono già arrivati degli sms, ma ora ne leggo uno, poi magari ne discuteremo anche di questo. Non ho mai capito come possono produrre così tante bottiglie in Franciacorta, che conosco bene, e anche nella zona dello Champagne, pur allargata che sia. Bene, poi vedremo anche questo argomento. Abbiamo con noi un altro produttore. Buongiorno a Bruno Ceretto. Come va? Bene, grazie Bruno. Bruno sì. Anni fa ha prodotto anche lui nella sua azienda metodo classico, spumante metodo classico, però è anche un distributore di un importante champagne che è Salon. Allora volevo chiedere Bruno, visto che tu hai visto i due mercati dei consumatori, sia dello spumante, chiamiamolo così, italiano, tanto perché se no ogni volta devo differenziare, e dello champagne, sono due mercati diversi. Ma Ti dirò, noi abbiamo fatto lo spumante esclusivamente per un fatto di esperimento, perché quando abbiamo comprato la Bernardina, che è un'azienda di 80 ettari nel comune di Alba, abbiamo impiantato tutti i vitigni internazionali perché siamo al confine col Barolo, non potevamo piantarne Biolo. Allora tra Cabernet, Merlot, lo Syrah, c'era anche il Viognier, il Chardonnay e il Pinot Nero. E quindi poi quando abbiamo cercato di eliminare una gran parte di questi vitigni, abbiamo cercato di fare un esperimento, avendo un po' di Chardonnay e un po' di Pinot Noir, di fare uno spumante che, diciamo, ha avuto un eccellente successo, però era una produzione molto limitata e quindi non adatta alla dimensione della nostra azienda, che è un'azienda non grande, però è un'azienda di 150 ettari di vigna. Quindi l'abbiamo tenuto lì in sospeso con grande soddisfazione, e però adesso lo lasciamo per intraprendere invece il discorso dell'importazione. Abbiamo scelto Salon, che è uno champagne di grande valore, e il suo fratellino minore che è De La Motte. Io ti dirò che per noi è molto più facile vendere lo champagne che vendere lo spumante, ed è anche molto più remunerativo vendere lo champagne che vendere lo spumante, sotto un certo aspetto. Però resta inteso che io sono un sostenitore dello spumante italiano, perché negli ultimi 20 anni veramente le cose sono migliorate nell'ordine qualitativo. Stentano un pochettino all'estero queste case perché c'è difficoltà, ma piano piano, anche noi 50 anni fa quando siamo sbarcati negli Stati Uniti con i vini rossi avevamo difficoltà, poi lavorando bene, soprattutto il Piemonte e la Toscana hanno raggiunto vertici non indifferenti. Bene, grazie a Bruno Ceretto. Bene, volevo sentire, ora abbiamo con noi un giornalista che è molto attento a tutte le vicende del vino italiano, che è Franco Zigliani. Buongiorno Zigliani. Buongiorno a tutti. Zigliani, hai sentito più o meno quello di cui, diciamo, le prese di posizione. Volevo chiederti innanzitutto una risposta, tu che vivi in Franciacorta, questa email, questo sms abbastanza provocatorio di questo radioascoltatore che diceva: sono tante le bottiglie dove sono le vigne, così pure nel champagne sono tante le bottiglie di champagne, ma è possibile che si possa produrre tanto? Possibile sì, perché se si dà un'occhiata alla Franciacorta, se si dà un'occhiata all'estensione dei vigneti, basta passare in autostrada, no? Arrivando prima del casello di Rovato, si vedono adesso, negli ultimi anni, dei vigneti che fino a pochi anni fa non c'erano più. La produzione di Franciacorta è aumentata perché è aumentata l'area di produzione e magari si è estesa dalla parte storica collinare anche a vigneti, virgolette, di pianura, anche vigneti che costeggiano l'autostrada, per cui i 10 milioni circa di bottiglie che la Franciacorta ha raggiunto a fine 2008 ci stanno, io credo che possano addirittura crescere, sono effettivi, non sono fittizi. Ecco, questo di comprendere tutto sotto la voce spumante italiano e fare, diciamo, questi confronti con il complessivo dello champagne, lo ritieni giusto? No, io sono anni che scrivo che è una assoluto non senso parlare di spumante italiano, quindi l'uscita di Maurizio Zanella non mi ha stupito, mi delude e mi stupisce la mancata uscita, un'analoga mancata uscita, che ne so, dei produttori trentini del Trento Doc, dei produttori del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, dei produttori dell'Asti, che accettano di farsi ingabbiare in un contenitore, che non vuol dire niente, perché nella parola spumanti c'è tutto il contrario di tutto, ci sono il metodo classico, i Franciacorta, i Trento Doc, i vini dell'Oltrepò fatti con il metodo Champenois, con 12, 24, 36 mesi di fermentazione sui lieviti, con costi di produzione elevati, e ci sono degli spumantini generici che vengono fatti in maniera velocissima, oppure dei prosecco, con tutto il rispetto per il prosecco, i cui tempi di produzione e i cui costi di produzione sono totalmente diversi. Come diceva Zanella, ha perfettamente ragione, bisogna ricominciare, imparare a chiamare i prodotti con il loro nome. Se un prodotto ha una propria denominazione, ha una propria zona d'origine, chiamiamolo con quello. Illudersi di mettere insieme nello stesso contenitore spumante italiano cose profondamente diverse è disinformazione per il consumatore. Poi, ripeto, c'è stato sicuramente un incremento nelle vendite e una parte di questi prodotti, tra virgolette, spumanti, stanno andando molto bene su alcuni mercati esteri, soprattutto il Regno Unito e gli Stati Uniti. Ma attenzione, questi è il prosecco soprattutto, il prosecco DOC e i prosecco generici che stanno erodendo spazio in questa particolare congiuntura economica allo champagne ma attenzione, chi oggi si passa, il consumatore inglese magari più giovane o americano più giovane, dallo champagne al prosecco, lo fa semplicemente per motivi economici. Domani, quando la crisi economica, la recessione finirà, questo consumatore tornerà sicuramente allo champagne. Bene, sentiamo Felice D'Alecco. Buongiorno, Felice. Io ho una domanda che mi sta distruggendo il bere il vino, ed è questo. Fino a 3 anni fa nei vini, spumanti, champagne, tutto il resto, non c'era la famosa parola solfiti. Allora, adesso i vini stanno dentro tutti i solfiti, negli aceti c'è i solfiti, e allora, siccome io tanti anni fa, con mio suocero, ormai sono vecchietto, quando volevamo avere un vino dolce, pigliavamo un Tokaj bianco e quando stava fermentando si buttava dentro una pastiglia di solfito e noi avevamo un vino dolce per 3-4 mesi, era per mia suocera, sono da Migiana. Adesso io noto che in questi vini, tutti i vini, anche i migliori, c'è dentro la parola solfiti. Visto che siamo in diretta e questa parola mi sta, perché io so che cosa vuol dire solfitto. Poi sono andato a documentare in internet e risulta che la parola solfiti è un componente che può dare problemi di reazione a chi soffre di asma bronchiale, di asma bronchiale. Perciò chiedo una deduzione. Bene, guardi, abbiamo fatto una trasmissione proprio in proposito un po' di mesi fa. Le posso dire che il vino naturalmente produce dei solfiti e addirittura ci sono molti produttori biodinamici che sostengono che il limite di legge messo per dover mettere sulla bottiglia contiene solfiti è quello già prodotto dal vino naturalmente. Tant'è vero che c'è un produttore che da un lato mette contiene solfiti, dall'altro mette non contiene solfiti aggiunti. Quindi credo che già di per sé appunto ci sia una produzione di questo tipo. Comunque volevo tornare un po' champagne spumante e vedo che mi arrivano un sacco di sms, chi mi parla del Durello, chi mi dice bene in Romania tutto il prodotto italiano viene chiamato spumante e tutto quello francese senza rigore viene chiamato champagne. Bene, credo che i paesi emergenti sicuramente ormai si chiama in questa maniera e fanno di tutto un erbo un fascio, purtroppo. Ma sentiamo anche Franco dalla provincia di Milano. Buongiorno Franco. Buongiorno. Non ho capito effettivamente che cosa si intende per Franciacorta, perché non è uno spumante, no? È una regione. Ma che cos'è Franciacorta? Come possiamo chiamarlo? Bene, guardi, sentiamo Franco Zigliani, che credo su questo possa dare una risposta esauriente. Zigliani. Rispondo con una piccola precisazione. Visto che di Franco Zigliani ce ne sono due, io sono quello che produce parole, non l'omonimo che produce proprietario della Guido Perrucchia, che viene precisarlo perché magari ci può essere qualche confusione. Che cos'è la Franciacorta? Quando è nata questa storia, questa zona spumantistica, tra virgolette, italiana, è nata la piccola risposta italiana, in piccolo, che non pensa assolutamente di mettere in crisi o fare la guerra o la concorrenza allo champagne, il piccolo equivalente della champagne in Italia. La stessa metodologia, il metodo champenoise, le stesse uve, Pinot Nero e Chardonnay, con una piccola differenza che in Franciacorta si usa anche un po' di Pinot Bianco, è lo stesso tipo di prodotto. Quello che fa la differenza è il terroir, il microclimi, che sono completamente diversi. E poi i numeri, perché al di là della piccola crisi che la Champagne e lo Champagne stanno avendo quest'anno, 350 milioni di bottiglie, dati fine 2007 dello Champagne, contro 10 milioni scarsi di bottiglie di Franciacorta. Ecco, chi pensa che la Franciacorta possa essere un concorrente dello Champagne, della Champagne, racconta barzellette, assolutamente. È la migliore zona, insieme al Trentino, al Trento DOC, la migliore zona spumantistica italiana per la produzione di metodo champenoise. Grazie. Quindi una volta si potevano chiamare così, adesso non si possono più chiamare così, li chiamiamo metodo classico. Bene, grazie Zigliani. L'ultima cosa a Bruno Ceretto volevo chiedere, visto che è un grande esperto di mercato, volevo chiederti questo, tu che vedi molto bene il futuro appunto delle produzioni, cosa ne pensi? Può essere lo spumante italiano tout court, quindi che costa molto meno, un grande concorrente appunto in questa crisi economica che ormai è talmente evidente, sempre di più emergerà? Ah, è caduto. È caduto il nostro ceretto. Bene, sentiamo Paolo da Torino. Buongiorno Paolo. Ah, buongiorno. Senta, no, volevo solo intervenire riguardo che secondo me c'è tutta un'illusione di una possibile concorrenza. Secondo me non ci può essere concorrenza, perché qualsiasi mediocre spumante, cioè mediocre champagne è più buono di un buono spumante. Cioè, non dobbiamo illuderci purtroppo fino adesso. Poi magari la produzione migliorerà con la ricerca, con degli studi sui vitigni, ma per adesso non c'è concorrenza. Bene, grazie, questa è una sua opinione personale, ce ne sono tante magari anche contrarie, e ringrazio anche Franco Giuliani. Il gastronauta. Cin cin di nuovo, cari amici e cari gastronauti. Ecco, sentiamo Giuseppe dalla provincia di Pordenone. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno Paolini, complimenti come sempre per l'interesse delle cose di cui lei ci fa discutere. Allora, l'intervento è in relazione anche a quanto raccontava l'amico Pepi Mongiardino, che saluto tra l'altro, approfitto per salutare, che mi ha insegnato in questi ultimi anni a conoscere lo champagne come vino, prima ancora che come bevanda celebrativa di ricorrenza e cose del genere. Allora, quello che volevo dire io, al di là delle varie illusioni circa la qualità, i possibili sorpassi o la competizione fra spumanti e champagne, anche se noi facciamo specialmente Cade il Bosco prodotti di eccellenza assoluta, è la facilità di beva dello champagne, nel senso che io credo si possa fare una serata bevendosi anche da soli una bottiglia di champagne, la mattina dopo ci si sveglia e si va a lavorare tranquilli. Non si può fare lo stesso con una bottiglia di vino rosso, per quanto buona, o con una bottiglia di vino bianco fermo. Questo, ecco, è il grande pregio dello champagne, bevanda che beve in qualsiasi momento, in qualsiasi quantità. Giuseppe, non si può generalizzare, perché ci sono dei buoni vini rossi e buoni vini bianchi. Sì, no, ma scherzo, sì. Io sono un appassionatissimo di vino, e quindi ci mancherebbe. Il vino tendenzialmente è il rosso, anzi il vino è rosso, questo è un logo. Beh, anche perché i due vitigni che di solito vanno nello champagne di cui lei parla sono rossi, quindi bene. Grazie a Giuseppe della provincia di Pordenone. Bene, ora abbiamo sentito il Franciacorta, ora sentiamo anche il Trento Doc. E io magari, caro Lunelli, parlerò di spumante, tu non mi correggere, perché è nel gergo comune, non si può ogni volta specificare. Buongiorno Marcello Lunelli. Ciao Davide, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori. Ecco, volevo chiederti, ma voi come spumante Ferrari vi sentite inseriti in quella dizione che spumanti italiani di 300 milioni di bottiglie? Ma guarda, sicuramente sì, nel senso che dobbiamo gioco forza, perché ovviamente facciamo parte di un gioco di statistiche. Voglio ricordare anche l'amico Franco Giuliani, che lo stesso Sole 24 Ore, vostro editore, negli ultimi articoli di dicembre non solo parla di spumanti italiani, ma pubblica i dati separati per metodo, quindi milioni di bottiglie prodotte col metodo classico, milioni di bottiglie prodotte col metodo Charmat, quindi si inizia già a fare queste distinzioni. Ovviamente a livello di numeri, se in Francia la totalità di vini con le bollicine, diciamo l'80%, viene così accomunato allo champagne, cioè 330 su 430 milioni di bottiglie, in Italia su circa 300 milioni solo 22 milioni sono prodotte col metodo classico, cioè col metodo che viene utilizzato per il Trento Doc, la Franciacorta ed altri metodo classico italiani. Quindi dobbiamo fare i conti anche con queste cifre e con queste logiche di raccolta dati, che piano piano però lo stesso Sole 24 Ore ci sta dando una mano per fare le distinzioni del caso. Bene, grazie, rimani con noi Marcello. E ora abbiamo con noi Domenico Avolio, direttore del Centro Informazioni Champagne. Quindi è un organismo istituzionale questo, che noi non abbiamo ma che i francesi hanno. Buongiorno Avolio. Buongiorno a tutti. Volevo chiederle, Avolio, avete già i dati definitivi che riguardano il 2008? No, per il momento no, non possiamo quindi fare nessun tipo di previsione. Gli ultimi dati che abbiamo disponibili sono quelli alla fine di settembre del 2008 e per l'Italia ci davano ancora una crescita del 4,3% con 5.800.000 bottiglie importate fino alla fine di settembre appunto. Globalmente c'era stata una flessione dell'export dello 0,8% che però è stata sufficiente a far dire che lo champagne crollava. Sì, ma la verità è anche che ci sono molte aziende italiane spumantistiche che in questi ultimi mesi hanno perso delle quote, magari non lo dichiareranno mai, ma è la pura santa verità. Volevo chiederle a Voglio un'altra cosa importante. Quanto esporta lo champagne in giro per il mondo di bottiglie? Che numero? Ma allora, io posso fare riferimento ai dati 2007, che sono quelli definitivi almeno fino a questo momento. Nel 2007 sono state esportate, o meglio noi diciamo spedite, 338 milioni di bottiglie, di queste 150 milioni sono affluite sui mercati internazionali. Quindi i francesi bevono il 50% del loro champagne? Esatto, più o meno il 50%, e la crescita globalmente lo scorso anno è stata del 5,26%. L'Italia nel panorama dei paesi all'export ha una posizione di tutto rispetto, perché siamo i quarti nella classifica a volumi, perché l'anno scorso abbiamo raggiunto per la prima volta i 10.300.000 bottiglie con una crescita del 10,9%, mentre se rifacciamo la classifica a valore l'Italia diventa addirittura terza, ed è terza dopo gli Stati Uniti e il Regno Unito. Questo è un dato importante perché ci dice che gli italiani bevono bene di alta gamma. Bene, viene da dire che diciamo siamo grandi contribuenti dello champagne, mentre i francesi sono pessimi contribuenti dei nostri vini, a cominciare dalle bollicine. Sentiamo Roberto da Lecce. Buongiorno Roberto. Buongiorno a lei. Io mi chiamavo, anche se credo il mio intervento abbasserà il livello della discussione, perché sono solamente un buon gustaio e non un esperto, però per questo motivo seguo molto attentamente la sua trasmissione. Non si preoccupi del livello. Oggi sentivo parlare di un nuovo dramma che da di tempi mi ha preoccupato, cioè il dramma di bere uno champagne insieme col panettone e uno spumante magari passeggiando. No, guardi io che riconosco no. di non capire molto no, la differenza. Mi spiace dirlo, ma lei ha capito male. Cioè il precedente intervento è stato hanno detto no, mai lo champagne col panettone. Quindi cioè hanno detto tutte e due a tutto pasto, cioè gli spumanti metodo classico e gli champagne a tutto pasto, da non utilizzare col panettone, al panettone invece usare delle bollicine dolci. Comunque probabilmente così non ha afferrato il senso, ma era questo il senso, Roberto. Comunque la ringrazio del suo intervento e continui a seguirci. Torniamo a Marcello Lunelli. Lunelli, come vanno le esportazioni di Trento DOC? Le esportazioni stanno andando bene, sempre con i numeri di un consorzio che quest'anno ha toccato le ultime stime. È ancora presto, come dice il signora Voglio, a dare numeri definitivi, gli 8 milioni e mezzo di bottiglie, e diciamo che siamo circa, abbiamo toccato quasi il milione di bottiglie esportate, di cui ce ne facciamo carico come azienda, perché come azienda abbiamo oltre il 50% di questo export, viste le dimensioni dell'azienda rispetto al consorzio. Ecco, stanno arrivando così anche delle stilettate sugli SMS. Ne arriva una che, a proposito di quanto aveva detto Gigliani dello sviluppo del Franciacorta, dice vabbè, ma i vigneti di fianco alle autostrade sicuramente respirano smog, come possono essere sani? E poi ancora un produttore siciliano della Sicilia occidentale ci dice: stiamo regalando i nostri ottimi vini ai cosiddetti grandi produttori del nord. Andrea, non si possono fare nomi, ma quando si fanno queste accuse però bisognerebbe anche mettere nome e cognome. Poi c'è invece chi al contrario dice: ma quella roba francese fa schifo. Ecco, dico che fa schifo, insomma, mi sembra anche questo fuori luogo. Ma sentiamo Mauro da Brescia. Buongiorno Mauro. Buongiorno. Io volevo precisare che secondo me fare tutto di un fascio tutto lo spumante italiano è molto sbagliato, perché come in Francia spiccano nomi di champagne importanti, secondo me anche in Italia bisognerebbe precisare cantine e puntare su prodotti di alto livello. perché è inutile mettere il prosecco insieme a un Franciacorta, oppure un Asti con un Trento Doc, perché neanche in Francia mettono a pari livello un Cremant con uno Champagne. Vi ringrazio. Bene, grazie Mauro da Brescia. Sicuramente si andrà verso sicuramente questa soluzione di cominciare a definire, come mi sembra che abbia già fatto Marcello Lunelli, dando appunto, ricordando queste statistiche che cominciano già a apparire. Avolio, un'ultima cosa volevo chiedere: come Champagne prevedete che questa crisi economica abbia grossi riflessi sul mercato? Difficile dirlo in questo momento, è evidente che quello che è successo nel 2008 non potrà non avere dei riflessi. Ripeto, per il momento i dati non ci sembrano aver risentito in modo particolare di questa situazione, ma quello che io dico sempre è che lo champagne è un vino che ha 3 secoli di storia, e in 3 secoli, solo per citare gli eventi più recenti, ha attraversato 2 guerre mondiali, la crisi del 29, e in genere chi fa vino, e in particolare chi fa metodo classico, è abituato a ragionare sui lunghi periodi, per cui non vedo motivi di preoccupazione, insomma penso che si potrà attraversare anche il 2009. Bene, grazie. Cominciano a arrivare così questi sms appunto di orgoglio italiano. A proposito di orgoglio italiano, vorrei ricordare che oggi in giro per il mondo, ad opera dei cuochi del gruppo virtuale Cuochi Italiani, è stata lanciata la giornata dell'orgoglio italiano in giro per il mondo, e in molti locali verrà così cucinato e verrà servito un risotto alla milanese, appunto come dimostrazione della cucina italiana. Magari, chissà, forse un giorno potrebbe essere anche questo per gli spumanti italiani, in particolare con le distinzioni che abbiamo fatto, a seconda delle singole distinzioni potrebbe essere anche una giornata dell'orgoglio delle bollicine italiane. Bene, e ora passo la linea alla regia per la viabilità. Ringrazio Marcello Lunelli di Ferrari e Domenico Avolio, appunto, che rappresenta lo champagne in Italia. Il gastronauta. Cin cin di nuovo, cari gastronauti. Ebbene, all'SMS che parlava di smog sulle autostrade di Franciacorta, immediatamente risponde Gianluca dalla Toscana: ma quale inquinamento delle autostrade? In Francia ci sono le centrali atomiche. Un altro che mi dice: per fortuna abbiamo il Ferrari. Non ha detto la Ferrari, ma ha detto il Ferrari. Bene, che mi sembra chiaro. E continuiamo ad andare un po' in giro per il mondo. Bene, ora mi collego con Sydney in Australia, con il nostro osservatore speciale Piero Tantini. Buongiorno Piero. Buongiorno. Sentiamo malissimo, comunque speriamo che si possa sentire la tua voce. Allora, io mi collego con Sydney proprio per sapere. Piero, ma lo spumante italiano come è vissuto in Australia? Purtroppo si sente male, cerchiamo di ricollegarci. Piero, cercheremo di ricollegarci per avere una telefonata migliore. Grazie. Allora, bene, andiamo a Modena, andiamo all'Osteria della Francescana, andiamo dal suggeritore dei vini Giuseppe Palmieri. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a tutti, ciao Davide. Tu sei un grande appassionato di bollicine in tutti i sensi, anche su certi vini, a cominciare dal Lambrusco. Volevo chiederti: ma secondo te sono così facili questi paragoni? Sono permessi questi paragoni tra lo champagne e lo spumante italiano? I paragoni sono dovuti, perché questo, insomma, ci permette poi di sviluppare un percorso di crescita che porterà, insomma, a raggiungere loro che sono senza nessun dubbio i più bravi in assoluto. E io ci tengo a sposare la causa del dottor Maurizio Zanella, che rimane, insomma, una delle figure più alte in assoluto del vino italiano, perché ha dimostrato un'umiltà e un'intelligenza nel dichiarare quello che ha dichiarato, che, insomma, ne fa un esempio per tutti, perché avere l'umiltà di Maurizio Zanella di riconoscere che è sbagliato lanciare messaggi televisivi terroristici per cui lo spumante italiano scavalca lo champagne nei consumi e la qualità, è una bugia che, insomma, per fortuna poi trova persone come lui che insomma ridimensionano il tutto. E lo champagne deve essere collocato nella posizione che merita, cioè è il più grande vino frizzante del mondo. Se noi ci facciamo forti di questa convinzione e cominciamo a sostenere la grande italianità da Trento alla Franciacorta, Prosecco, quello che sia, poi si può iniziare il percorso, prenderli a modello e sviluppare un progetto di grande qualità, fino a che noi ci continueremo a confrontare, no, in termini quasi calcistici con loro a sedere alle loro tavole con un pezzettino di Roquefort e una grande bottiglia di champagne, rideranno di noi e noi saremo sempre, se tutto va bene, secondi. Bene, grazie a Palmieri. Ora riproviamo ad andare a Sydney da Piero Tantini. Buongiorno Piero, mi senti? Buongiorno Davide, spero che si senta meglio adesso. Perfetto, io ti chiedevo, qual è, diciamo, come viene vissuto lo spumante italiano in Australia? Beh, lo spumante italiano, devo dire, ha una presenza piuttosto significativa, soprattutto con il prosecco. Al di fuori del prosecco, la ristorazione italiana più qualificata veicola un po' di Franciacorta, ma a parte quello è una presenza piuttosto limitata, mentre il prosecco è reperibile in qualsiasi enoteca, ha un'immagine piuttosto alta e penso anche dei numeri significativi. Bene, sì, rimani con noi, vedo che continuano ad arrivare tanti sms, chi chiede quali sono i metodi diversi, c'è lo Charmat e c'è il metodo classico che abbiamo detto, che un tempo era Champenois, che ora non si può più chiamare in questa maniera perché i francesi in sede comunitaria hanno avvocato a loro, diciamo, questo titolo. Bene, sentiamo, vedo anche, per quanto buono possa essere lo spumante italiano, no, non avrà mai l'appeal di uno champagne, e continuano ad arrivare pro e contro, anche in Franciacorta producono roba non eccelsa, quindi non basta dire Franciacorta, dice ancora un altro radioascoltatore. E poi c'è qualcuno che mi dà un nome, io mi spiace, non lo posso fare, un lavoratore di un'azienda che mi dice il 50% arriva dal vino del sud, quindi caro amico, mi sembra un po' così da parte tua confessare questo fatto. Bene, non so se hai qualcosa con il proprietario oppure se probabilmente sei uno che si dichiara lavoratore, in realtà non lo è. C'è dello champagne senza etichetta, viene calcolato nelle bottiglie prodotte e i miei parenti me ne portano spesso. Vabbè, questo succede un po' ovunque. Poi ancora mi parlano del metodo classico, non può essere genuino perché ci sono i tagli. Beh, le cuvée sono sempre state nello champagne da sempre, quindi sicuramente non si può discutere la genuinità di questo. Comunque torniamo anche a un altro nostro ospite, Roberto Bellini. Roberto Bellini è dell'AIS Toscana ed è un grande appassionato di bollicine. Voglio chiedere anche a lui se bisogna fare dei distinguo tra champagne e spumanti anche metodo classico italiano, oppure diciamo se questi due prodotti nel tempo potranno essere confrontati. Buongiorno Roberto. Credo proprio che, come hanno già ribadito quelli che mi hanno preceduto, è impossibile fare un confronto fra champagne e altre realtà produttive che inseriscono le bollicine dentro il liquido. 300 anni di storia di know-how non si cancellano facilmente, e poi, come hanno già ripetutamente specificato sia Maurizio sia Beppe Buongiardino, insomma il terroir, il sottosuolo, il clima, insomma, hanno dato una grossa mano alla produzione di questo tipo di vino. E poi noi ci spersonalizziamo, come hanno ripetuto un po' tutti, c'è questo spumante, il territorio di cui siamo stati paladini per tanti anni l'abbiamo dimenticato quando abbiamo parlato di questo prodotto. Ecco, c'è un radioascoltatore che così immaginavo che succedesse, che lancia la palla lanciata così anche dal ministro delle politiche agrarie, quando ha detto non comprate l'ananas, comprate dei frutti made in Italy. C'è qualcuno che dice ecco l'esterofilia dello champagne, ma io credo che lo champagne non sia un fatto di stagione che viene preferito altro, sia ormai un fatto ancestrale, sono 200 anni di storia, non so cosa ne pensi Roberto. Ma sai, come un po' la battuta che fanno su quel film con le Ferrari, che dicono ora la Ferrari non si ruba perché è di tutti, lo champagne è di tutti nel mondo, è stato il primo di tutti e ha un vantaggio enorme. Comunque non dimentichiamoci, quando tutti hanno parlato di queste ipotetiche bollicine, cioè, ci sono anche realtà, altre realtà dall'esterno che arrivano in Italia, come il cava 200 milioni di bottiglie, la blanchette dell'Imu che ora sta entrando nel nostro mercato, il Cremant d'Alsace che sta arrivando, cioè, quindi insomma c'è una battaglia abbastanza grossa, si devono attendere i produttori di questi vini italiani. Bene, grazie. Sentiamo, torniamo a Sydney. Piero, come vivono gli australiani lo champagne? Lo vivono con dei numeri che stanno crescendo a ritmi molto elevati. Io penso che sono un mercato tanto distante, un mercato tanto nuovo, ma c'è un vero e proprio boom dello champagne negli ultimi anni in Australia. E anche un boom di metodo classico australiano, perché non dobbiamo dimenticare che i francesi, molto astutamente, piuttosto che avere dei nemici, hanno fatto dei buoni alleati per controllarli meglio e sono sbarcati in Australia già da tanti anni con operazioni congiunte, con grandi maison di champagne che hanno installato delle operazioni importanti sul territorio australiano. Mi ricordo, grandissimo successo per lo champagne in Australia. Mi ricordo di aver visitato Shandon, se non erro, è molto presente. Assolutamente, Shandon e la Yarra Valley nel Victoria, ma altre maison importanti, Devaux per dirne un'altra, Redderer aveva iniziato un'operazione in Tasmania che adesso è diventata indipendente, quindi sono sbarcati con le proprietà e la tecnologia e hanno dato il là a un'industria di metodo classico importante, che ha un grande successo, che è in grande crescita. Se non erro, anni fa c'erano delle bottiglie australiane che portavano l'addizione champagne anche. Questo è successo, sicuramente sì, questo fa parte dell'eterna battaglia sulla protezione di alcune DOC, di alcune appellazioni, di alcuni nomi che identificano i prodotti, e quindi tuttora potevi trovare, in Argentina succede ancora questo ad esempio, In Argentina c'è ancora battaglia perché lo metodo classico viene comunemente chiamato champagne, spessissimo. Ecco, vedo continuamente gli sms che mi segnalano vini che arrivano dal sud e che vengono tagliati appunto sulla produzione di spumanti. Bene, questo credo sia una vecchia storia, però penso che ormai i controlli spesso mettono a nudo questi fatti. Mi continuano ad arrivare anche sms che mi segnalano spumanti un po' in tutta Italia con nomi che sinceramente molti dei quali io non li conosco, e chi scrive anche Ferrari si beve alla mattina non si hanno problemi, Luca, e poi appunto alcuni altri che sono decenni che i produttori di spumante tagliano col manduria, insomma sono tutte cose comunque che lasciano il tempo che trovano. Bene, io ringrazio sia Roberto Bellini che Piero Tantini. E Piero, che tempo fa in Australia? Siamo in un bel momento, sono la trentina di gradi, insomma, quindi siamo state molto piacevoli. Bene, allora bisogna avere le bollicine di sicuro. Ciao e a presto. Sempre pronte. Ciao Davide. Ciao, a presto. A presto. Allora abbiamo, diciamo, questa trasmissione che voleva un po' mettere a confronto questo, che mi sembra che sia quasi unanime, sia dai produttori che anche da osservatori e che anche dai radioascoltatori, di distinguere gli spumanti italiani a seconda delle varie voci e a seconda delle varie aree di produzione. Ma è evidente che se vogliamo fare tutto di un erbo un fascio perdiamo poi la caratteristica che è quella principale di cui da anni stiamo così promuovendo la nostra realtà, che è la diversità dei terroir. Quindi sicuramente facendo di tutto un erbo un fascio non si difende questa diversità dei terroir, quindi è giusto invece che ci siano per le varie aree i vari prodotti. E che dire, concludo questa trasmissione dicendo cin cin, bevete comunque o champagne o spumanti o Franciacorta o prosecco o Asti spumante, insomma, purché beviate delle cose molto sane. Tra l'altro devo ricordare un sms molto, come posso dire, molto crudele, che diceva: parlate di drammi del panettone con lo champagne o con lo spumante metodo classico e io ho problemi di arrivare a fine mese. Sì, sicuramente il dramma è questo, e l'altro è sicuramente una buttade, è un qualcosa di piacevole che purtroppo non a tutti capita e continua a capitare. Bene, buongiorno a tutti, vi do appuntamento domani alle 10 per la replica di questa trasmissione, alle 12:15 con il wine bar del Gastronauta. Buon weekend dal vostro Davide Paolini.